Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Più naturalmente potete trovarci sul web con l'apposita app che potete tranquillamente scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it, naturalmente città senza accento, e recentemente anche in DAB, nelle regioni limitrofe, chiamiamole così, Toscana, Lombardia e naturalmente in tutta l'Emilia Romagna. Mercoledì 10.30 all'incirca è l'orario di inizio di una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo di ogni epoca e di quasi ogni genere. Data la mia veneranda età e prima di dimenticarmi, annuncerò che mercoledì prossimo non sarò in trasmissione. Ogni tanto c'è bisogno di un piccolo check-up e vediamo appunto mercoledì prossimo di fare questa cosa. Ci risentiremo fra 15 giorni, ma intanto ci sono queste due ore da trascorrere insieme e come sempre sono due ore che iniziano con una novità. È una novità che mi ha dato un po' da fare, nel senso che l'album doppio più DVD del quale sto parlando, anzi un Blu-ray più che un DVD, è un album che si chiama semplicemente Neon Heat Disease, ad opera di una nuova band, nuova fra virgolette visto che oramai ha qualche anno, che è stata fondata da Adrian Belew, chitarrista e cantante che è stato coi King Crimson nel 1981 al 2008 con qualche interruzione, e da Tony Levin, anche lui con i King Crimson dal 1981 fino ad oggi, Tony Levin grandissimo bassista. Loro hanno assemblato questa band insieme a Steve Vai, che è un grandissimo chitarrista, ha lavorato con Frank Zappa e con tante bands e anche un'ottima carriera solista, più Danny Carey, batterista, che di lavoro fa il batterista dei Tools, ma a tempo libero ha un sacco di collaborazioni. Tutti insieme questa band hanno deciso di chiamarsi Beat. Beat come battito, è una, fra l'altro il nome anche di un'altra band ska degli anni 90, ma questo è un altro discorso. E il loro proposito, lo dicono apertamente sul loro sito, è di riproporre la musica degli anni 80 dei King Crimson, quando appunto Adrian Belew faceva parte della band. Hanno fatto solamente due album, uno in studio e uno dal vivo, che è quello che vi propongo oggi. Dal vivo registrato in quel di Los Angeles, al United Theater di Broadway, una delle tante zone dell'immensa Los Angeles, è stato registrato il 10 novembre del 2024. In Crimson credo che non abbiano, spero, non abbiano bisogno di presentazioni, quindi andiamo subito ad ascoltarci questi brani di King Crimson, per l'occasione, il primo dei quali è appunto dei Beat, questo doppio CD più Blu-ray, come vi dicevo, sono tutti brani di King Crimson, del resto è una cosa dichiarata da parte del quartetto, e andiamo a iniziare con questo pezzo che si chiama Tela Hunjingit, loro sono Beat. Una volta tanto abbiamo cominciato dalla fine, nel senso che questa Tela Ujinjit è l'ultimo brano di questo concerto immortalato in questo album che si chiama Neon Heat Disease. E il tutto appunto da questi beat. Dicevo in precedenza che ho avuto qualche problema con questo. Con questo, per reperire questo album, anche se poi alla fine ho dovuto abbozzare, diciamo così, perché questo album è uscito in due versioni, la versione doppio CD più Blu-ray e la versione triplo CD più Blu-ray. Ho cercato per mesi il triplo CD, in Italia non si trova, ho provato negli Stati Uniti in diversi negozi, e ho provato in Inghilterra, insomma, tutti più o meno dicevano Sì, sì, ce l'abbiamo, non c'è problema. Poi al momento dell'ordine diceva che non l'avevano più, quindi ho aspettato diversi mesi, perché questo è un album che è uscito, se ricordo bene, nel settembre del 2025, e solo adesso ve lo propongo come novità, ma ribadisco sempre, è una novità per quel che riguarda la mia trasmissione. Beat, dicevo, super band, Adrian Belew e Tony Levin, coinvolti, per meglio dire, nel line-up dei King Crimson, che ha visto passare decine e decine di persone. E in questa prima parte della trasmissione ci ascolteremo dei brani dei King Crimson fatti da altri, chiamasi covers, e ci sono moltissime, fra parentesi, però quasi tutte sono fatte da band che vedono nel proprio organico ex membri dei King Crimson, e quelli li teniamo per la fine. Prima vediamo di fare ascoltare un po' di covers dei King Crimson fatti da gente che con i King Crimson c'entra poco o niente. Iniziamo subito da un italiano, un grande batterista che viene da Roma, si chiama Roberto Gatto, è partito con piccole band progressive, poi è passato al jazz, e come tutti i jazzisti di tutto il mondo, oltre ad avere una serie abbastanza nutrita di album in proprio, ha un numero infinito di collaborazioni. Il 7 aprile del 2008 era alla Casa del Jazz e registrò un album che si chiama Progressivamente, omaggio al progressive rock. È un album che è stato inserito in una serie che si chiama Jazz Italiano Live, che è uscita per diversi anni, in questo caso particolare il 2008, e che era reperibile pagando naturalmente insieme a Repubblica e insieme all'Espresso, prima che diventassero Jedi. Roberto Gatto ha assemblato una super band di jazzisti italiani che non sono secondi a nessuno, e il brano che, anzi sono due brani che propongono dei King Crimson in questo Progressivamente. Il brano che ho scelto per voi è un classico, super classico, da In the Court of the Crimson King, album del novembre del 1969, che ci fece conoscere i King Crimson, fece conoscere anche qua in Italia, e al sottoscritto, che era poco più di bambino, anzi forse era ancora un po' bambino come adesso. E il brano che ho scelto per voi, dicevo, si chiama I Talk to the Wind, Roberto Gatto. Thank you. All'inizio della carriera la premiata Foneria Marconi faceva un sacco di covers, ad iniziare da Jethro Tull, finendo appunto con i King Crimson. Questo era Pictures of the City, da un album, il secondo album della band, che si chiama In the Wake of Poseidon, della band King Crimson naturalmente, maggio 1970. Premiata Foneria Marconi è iniziato nel 1971, infatti questo quadruplo box set dal quale ci siamo ascoltati Picture of a City, che si chiama 10 anni live 1971-1981, siamo ancora in attesa delle seguenti decade. Fra l'altro l'unico membro originale rimasto della band è Franz Di Cioccio, al quale vanno i nostri migliori auguri. Franz Di Cioccio, grandissimo batterista, che recentemente ha compiuto 80 anni. Siamo a Roxy Theater di Atlanta, 31 dicembre 1999. Scatta la mezzanotte, o per meglio dire scatta il primo minuto del ventunesimo secolo, e i Gov Mule cosa ti fanno? Suonano 21st Century Schizoid Man, la prima canzone dell'anno, la prima canzone del secolo, che appunto il ventunesimo. Gov Mule, grandissima band, e lo dimostra anche in queste piccole cose. Se poi seguite, pensate che a seguire arrivano We're Not Gonna Take It degli Who e Dazed and Confused delle Zeppelin, capirete che inizio migliore di secolo difficilmente ci poteva essere. Il tutto tratto da un triplo album che si chiama Mulenium, che appunto racchiude il concerto di Capodanno del 1999 dei Gov Mule, a cavallo fra 1999 e 2000. Ci sono personaggi che non sono molto noti al grosso pubblico, diciamo così, ma che hanno fatto la storia della musica rock. Pensate per esempio a Like Rolling Stones, singolare, di Bob Dylan. Ecco, l'introduzione di organo è stata suonata da un personaggio, un musicista grandissimo che si chiama Al Cooper. Lui ha attraversato decenni della musica rock, suonando le tastiere, il flauto, cantando, suonando anche la chitarra. E prima è partito con i Blues Project, poi ha fondato i Blood, Sweat and Tears, che ha lasciato dopo il primo album per divergenze musicali, e poi ha avuto una carriera solista fra alti e bassi, ma sicuramente sempre di un buon livello. Soul of Man è un doppio album che racchiude le highlights dei concerti del 4, 5, 6 febbraio 1994 al Bottom Line di New York City. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da Beat dei King Crimson, album del giugno del 1982. A presentarcelo è lo stesso Al Cooper. This is a blues song. However, it's Adrian Blues song. I can't even begin to tell you how difficult this song is to play, because Adrian Blue is nuts. So like mine. Oh man, I remember the feeling. Ooh, my hands in your hair, hands in your hair. I remember the rhythm. Ooh, the rhythm we made, the rhythm we made. I need to land sometime. Feel your heartbeat, oh, next to mine. I wanna feel your heartbeat, heartbeat, oh, next to mine. Oh! tough gray mornings, widows cry, wise men share a joke. I run to grasp the hanging sun to satisfy the hopes. The yellow jester does not play, it gently pulls the strings and smiles as the puppet stands in the court of the crimson. La title track di quell'album che ha fatto epoca, album veramente epocale, primo album di King Crimson, si chiama The Court of the Crimson King. La versione che ci siamo ascoltati è quella ad opera di Steve Hackett e della sua band. Steve Hackett chiaramente è chitarrista dei Genesis dal 1970 al 1977, poi con una carriera solista che ha visto pubblicare un sacco di album dal vivo. Questo si chiama The Tokyo Tapes, è stato registrato al Kosenekin Hall di Tokyo, forse si dice così, il 16 e 17 dicembre del 1996. Per l'occasione Stevie Hackett assemblò una band veramente micidiale, John Wetton al basso. John Wetton ha suonato praticamente con tutti, compreso i King Crimson. Ian MacDonald, anche lui era uno dei King Crimson della prima epoca. Chester Thompson ha suonato anche lui con tantissima gente, è andato dai Weather Report a quelli, ai Genesis, che poi sarebbero diventati Phil Collins Group. E Julian Colbeck è un altro tastierista molto molto in voga in Gran Bretagna. E tutto questo per questo Stevie Hackett e la sua The Court of the Crimson King, l'album, lo ripeto, si chiama The Tokyo Tapes. E visto che ho citato alcuni ex King Crimson, andiamo concludere con una band che comprende tutti o quasi ex King Crimson. Vi spiegherò adesso perché. Abbiamo in scena Mel Collins, lo ritroviamo in un sacco di registrazioni post King Crimson ed è attualmente nei King Crimson, ammesso che i King Crimson esistono ancora. Peter Giles è stato il primo bassista dei King Crimson ancora prima di Greg Lake. Ian MacDonald, l'abbiamo già sentito nel brano precedente insieme a Stevie Hackett, e Ian Wallace è stato un batterista per un paio di album dei King Crimson. In più questo Jaco Jaskowski, un nome assolutamente incredibile, che ancora non faceva parte dei King Crimson, ma questa band che si chiama semplicemente 21st Century Schizoid Band fu il trampolino di lancio per lui per entrare nei King Crimson. Infatti nell'ultima formazione lui è la seconda chitarra e il cantante. Questa 21st Century Schizoid Band, come del resto altri ex King Crimson, hanno un debole per l'Italia. Infatti questo album che ci andiamo ad ascoltare si chiama semplicemente Live in Italy, è stato registrato al Naima Club di Forlì il 25 marzo del 2003 ed era reperibile solamente insieme anche in questo caso all'Espresso o a Repubblica, sempre ai tempi non gedi. Ci andiamo ad ascoltare, ci sono tantissimi brani, questo è un po' particolare perché è un brano inedito, si chiama Birdman ed era una lunga suite che doveva far parte del secondo album dei King Crimson. Poi, come spesso accade, Robert Fripp cambiò idea e questo rimase nel dimenticatoio finché la 21st Century Schizoid Band non ne fece un bignamino, un resoconto, un riassunto, anzi per meglio dire, e ce lo fa ascoltare in questo ottimo album. Lo ripeto, 21st Century Schizoid Band, il brano si chiama Birdman. A concludere questa rassegna, che avrebbe potuto essere lunga il triplo, abbiamo il Gizmodrome, King Kong Project, Tony Levin Band, Stickman, Greg Lake e tantissimi altri. Ma finiamo appunto con la 21st Century Schizoid Band. sleeping in the comfort of another bed. Wouldn't matter to a man with an open heart. Wouldn't matter to a man with an open heart. Wouldn't matter to a man with an open heart. It comes right now. Play or be evasive as a shadow in the shade. Could be irregular, singing in underwear. Wouldn't matter to a man with an open heart. Wouldn't matter to a man with an open heart. Wouldn't matter to a man with an open heart. Here comes right now. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo in giornata, e quest'oggi è una novità veramente molto interessante, come quasi sempre mi vanto di dire le novità che vi propongo. Comunque questi erano i Beat, una band che è stata assemblata da due ex King Crimson, Adrian Belew e Tony Levin, che si propone di suonare la musica dei King Crimson degli anni 80. Infatti il brano che ci siamo ascoltati, che si chiama Man with an Open Heart, è stato inizialmente pubblicato dai King Crimson nell'album Three of a Perfect Pair, che è stato pubblicato nel 1984. I due ex King Crimson, Adrian Belew e Tony Levin, poi hanno soldato Steve Vai, che è un grandissimo chitarrista, e Danny Carey, che è un altro musicista batterista molto molto molto bravo. E finora hanno fatto due album solamente, uno in studio e uno dal vivo. Questo è stato registrato al United Theater di Broadway, Los Angeles, il 10 novembre del 2024, ed è consigliatissimo, anche se devo ammettere che la musica degli anni 80 e primi anni 90 dei King Crimson non è la mia parte preferita di questa grande band, ma io sono un vecchio nostalgico e i primi quattro album sono sicuramente superiori. Opinione personalissima. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni, ancora una volta tantissime cose registrate in questa giornata, e il criterio di scelta ancora una volta è quello di un brano per ogni decade. E ne siamo subito dal 1978 con una band che è alla nostra latitudine credo sia abbastanza sconosciuta. Si chiamano Mother's Finest, è una band che è arrivata da Atlanta, è attiva tuttora dal 1972. È una band che mescola un po' di rock, un po' di funk, un po' di blues, un po' di tutto, insomma, e ha la caratteristica di avere un cantante maschio e un cantante femmina, quindi due voci ad alternarsi e spesso anche a unirsi. Hanno fatto diversi album live, quello che ci andiamo ad ascoltare fa parte della benemerita serie Live at Rock Palast, registrazione effettuata per l'omonimo programma televisivo della TV che si chiama WDR, non so come dirla in tedesco, e Rock Palast è tuttora attiva dal 1974 e non mi stancherò mai di dire è la tipica trasmissione che è mancata qua in Italia per dare un'anima rock ai giovani virgulti italiani. E questo album in realtà, oltre a Live at Rock Palast, si chiama 1978-2003 perché sono due concerti diversi a distanza di 25 anni. E noi interessa quello del 1978, che è stato registrato alla Grughallen di Essen, appunto in Germania, come quasi tutte le registrazioni Rock Palast, il 4 marzo del 1978. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è una cover, un classico della Motown scritto dal trio Hollandoisie Holland, che ha scritto un sacco di pezzi tutti molto molto belli, tipo questo che si chiama Mickey's Monkey, la scimmia di Mickey, e loro sono Mother's Finest, era il 4 marzo 1978. Yeah. catcher. They're in Mickey's Mecca Children. Doing Mickey's Mecca Children. They're in Mickey's Mecca Children. To the monkey. To the monkey. Mickey's monkey. Belli tosti questi Mother's Finest, i cocchi di mamma, che il 4 marzo del 1978 erano in concerto ad Essen in Germania. Il concerto fu registrato ed è stato pubblicato tanti anni dopo, in compagnia del concerto del 2003, registrato appunto per la trasmissione Rock Palace. Il pezzo in particolare è Mickey's Monkey, che da classico della Motown è diventato un classico anche per questo gruppo che, ribadisco, in Italia credo sia abbastanza sconosciuto. Ed è incredibile, lo dirò tutte le volte, come ci siano dei gruppi che hanno fatto la storia della musica rock, però poi caduti nel dimenticatoio, almeno a queste latitudini, ancora una volta, fra l'altro latitudini abbastanza così, lasciamo stare questa piccola polemica. Loro sono i Kinks, fondato dai fratelli Davis, Ray che è il cantante, chitarrista e maggior compositore, e Dave, suo fratello minore, che suona la chitarra. Sono stati attivi dal 1962 al 1997, poi hanno avuto qualche sporadica riunione, ma niente di che. Hanno avuto un grande successo negli anni 60, il loro successo iniziale, che è quello che ci ascolteremo, e dopo hanno un po' cambiato il loro genere musicale, arrivando fino a certe cose molto vicine al cabaret, con dei testi molto ironici e molto, molto contro la way of life dei britannici. Hanno fatto 5 album dal vivo, questo è il secondo, scusate, si chiama One for the Road ed è composto da registrazioni effettuate in varie località. Questo in particolare è il Landmark Theater di Syracuse, nello stato di New York, quindi negli Stati Uniti. È una registrazione del 4 marzo del 1980 e il brano che ci andiamo ad ascoltare non è quello che avevo previsto, cioè You Really Got Me, ma è un brano che è stato anche coverizzato, scusate il pessimo termine, se ricordo bene, dai Pretenders, e il brano si chiama Stop Your Sobbing. Loro sono Kinks, dal 4 marzo del 1980. In trasferta in quel di Syracuse, stato di New York, gli inglesissimi Kinks, il 4 marzo del 1980, questo era Stop Your Sobbing, uno dei classici della prima epoca di questa band che meriterebbe maggior ricordo. Uno dei miei grandi, forse il più grande, amore musicale insieme a Bruce Springsteen, giovane età, sono stati gli Yes. Tralascio ogni commento sulle ultime cose, andiamo invece con queste registrazioni che sono state effettuate nel 1996 a San Luis Obispo. Sono due album doppi usciti a qualche mese di distanza l'uno dall'altro, si chiamano Keys to Ascension Volume 1 and 2, è stato registrato appunto a San Luis Obispo, che è una bellissima città californiana, il 4 marzo del 1996 appunto. Questo arriva da Keys to Ascension 2, il secondo volume appunto, sono due doppi, il primo, il dischetto è dal vivo e il secondo invece è in studio. Questa naturalmente è la parte live da parte di questa band che non vede più nessun membro originale, perché Stevie Howe è entrato solamente con il secondo disco nella band, tutti gli altri sono nuovi, fra virgolette, diciamo così. Il brano che ho scelto per voi è un brano che a me piace tantissimo, naturalmente, si chiama Turn of the Century, loro sono Yes, era il 4 marzo 1996. Work is strength, so transform. so heavenly. You're coming dancing with Michael. So sexy, yeah, you're sexy. I'll come and dance with Michael. You're all I see, I wanna be. You're come and dance with Michael. So close now. Uno dei grandi successi di Franz Ferdinand, ottima band proveniente da Glasgow, attiva dal 2002 sotto la guida sapiente, si dovrebbe dire, di Alex Capranos, che è il cantante, suona la chitarra e anche le tastiere, e pare che sia anche un ottimo cuoco, ma questo esula dal contesto musicale di questa trasmissione, ma non dalla persona che vi sta parlando. Comunque andiamo avanti. Hanno avuto appunto un grande successo con una serie di singoli tratti dal loro primo album del 2004, e poi ne hanno annellate altre, veramente una band di grande successo. Loro hanno fatto un accordo con una, chiamiamola agenzia, no, chiamiamola proprio casa discografica, che si chiama Live Concert, e hanno pubblicato una serie di album di quelli che si chiamano Instant Record, cioè registrati durante il concerto e venduti subito dopo. Poi naturalmente c'è sempre un sovrannumero che viene venduto su internet o in alcuni casi anche nei negozi. Questo è uno di quelli, ed è proprio la registrazione di un concerto casalingo, nel senso che è stato registrato al Barrowlands di Glasgow il 4 marzo del 2009. Il brano, per quei pochi che non lo sapessero, si chiama Michael. Nel 2006 Justin Vernon cominciò a registrare un album solista che voleva intitolare, cioè voleva che fosse appartenesse al suo alter ego Bon Iver. a poco questo alter ego solista divenne però una band, come è tuttora. Non ci sono live album, lo ripeto, è partito nel 2006 ed è naturalmente ancora in giro, anzi, se ricordo bene, ha pubblicato proprio un album in questi ultimi tempi. Quello che interessa a noi, a parte appunto che non ci sono album live, è un extended play che è stato pubblicato nel gennaio del 2009 con 4 canzoni in studio. Poi è stato ripubblicato in occasione del 10° anniversario con le stesse 4 canzoni naturalmente, ma con altre 4 canzoni che sono le stesse però registrate dal vivo. Quindi abbiamo 4 canzoni in studio e 4 canzoni uguali, cioè la versione live delle precedenti. Un po' di casino ho fatto, spero che abbiate capito lo stesso, ma ce le andiamo ad ascoltare. Per rendere ancora un po' più complicate le cose, i 4 brani live sono stati registrati in un'occasione diversa. Questa che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Babies, è stata registrata all'Eventim Apollo Hammersmith Londra il 4 marzo del 2018. Bon Iver, il brano, lo ripeto, si chiama Babies. Thank you. Bon Iver, registrato in quel di Hammersmith a Londra 4 marzo 2018. Il brano si chiama Babies ed è inserita nella pubblicazione per il 10° anniversario di questo extended play che si chiama Blood Bank. I'm building a still to slow. Mi rimane giusto il tempo di farvi ascoltare ancora un po' della novità di oggi, la cosa mi fa molto piacere. Sto parlando naturalmente dei Beat, Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin e Danny Carey. L'album si chiama Neon Heat Disease. La versione che vi ho proposto oggi purtroppo è quella 2 CD più Blu-ray, ma esiste anche la versione 3 CD più Blu-ray, che sembra abbastanza introvabile, almeno per chi vi sta parlando. Andiamo a concludere quindi con i Beat. Prima però vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, una trasmissione di musica dal vivo, 2 ore al mercoledì. Purtroppo, come vi dicevo, per problemi di salute mercoledì prossimo non sarò in trasmissione, sarà sicuramente qualcosa di meglio, e vi do appuntamento quindi fra 15 giorni, sempre 103.1 MHz in FM stereofonica da Bologna, oppure tramite il DAB in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana, in tutta la Lombardia, e inoltre anche sul web per tutto il resto del mondo. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia dei Beat, che, come ho detto all'inizio, lo dicono loro stessi, non lo dico io, suonano la musica degli anni 80 di King Crimson. Infatti quello che ci andavano ad ascoltare, il brano si chiama Model Man, è stato pubblicato nel 1984 in un album che si chiama Three of a Perfect Pair. E quindi vi ringrazio per l'ascolto di nuovo, vi lascio in compagnia dei Beat. Ciao a tutti da Nevio. I look for the signs, look for the symptoms, look for the sign. Calm before the storm. I feel the silence, I feel the symptoms, I feel the strain. Tension in my head. Well, I feel the strange tension in